eravamo al capitoletto 10, il cancello, ecco, di cui volevo fare però ancora qualche nota. Quindi c'è questo momento di assoluta felicità, incomprensibile peraltro, come spesso è la felicità, nel momento in cui Charles apre il cancello, sì, la palizzata, la barriera della casa di Emma Rouault. C'è un senso di festosità, ma la cosa interessante da notare è che spesso le sensazioni forti in ognuno di noi si fermano proprio su certe parti del corpo, come se certe parti del corpo le recepissero, le avessero poi memoria, in questo caso la spalla, no? La spalla, insomma, conosco una persona che il lutto della morte di sua madre si era concretizzato poi in un dolore alla spalla. Era la spalla su cui insieme ai fratelli aveva portato in chiesa alla bara, quindi la bara era molto pesante, e quindi questo dolore era come diventato come un segno del lutto. Così lui, nell'inconsapevolezza più beata, aprite un po' la finestra, è aperta laggiù, sì, nell'inconsapevolezza più beata, perché Charles è un uomo inconsapevole, si rende conto di questo piacere profondo che prova ogni volta a spostare questo cancello. Questo entrare in una casa della possibile felicità è un ricordo molto preciso nella mitologia orientale, è Le Mille e Una Notte. No, apro una porta, come sapete, ed entro in una stanza del tesoro. Qui nella fattispecie il tesoro c'è, cioè, che il tesoro è semplicemente la presenza di Emma. Ma naturalmente Charles non sa nulla. Colgo l'occasione per dirvi una cosa che fra poco vedremo meglio, più dettagliatamente, poi nel corso della lettura del romanzo, di una differenza che sintetizzo in questo modo, fra il sonno e la veglia. Allora, i due personaggi, che sono assolutamente antitetici, quelli di Emma e quelli di Charles, sono caratterizzati da un atteggiamento diverso nei confronti del sonno e della veglia. Emma, lei non prende appunti? No, io sì. Ah, lei non sì. E Emma non dorme mai. Questo è interessante, Emma non dorme mai. E però sogna ad occhi aperti. Cioè sogna continuamente senza dormire. Al contrario di Charles, dobbiamo dire l'opposto, che Charles è in uno stato di perenne sonnolenza, ma non ha sogni, di nessuna sorta. La pagina che stiamo per vedere, il capitolo che stiamo per vedere, è uno delle gemme che c'è un bar? No, allora non grida, non è corretto. Se vuol dire, dice fuori, va bene? D'accordo? La pagina che vediamo è una delle pagine più straordinarie, più belle della Comarina. È quella che chiamiamo l'episodio dell'ombrellino. È il capitolo 11 ed è a seguito proprio di quello che abbiamo visto finora, il capitolo del cancello, e quindi comincia con Elle le reconduisait toujours. Elle le reconduisait toujours. Lo vedete subito lì di seguito, vero? Elle le reconduisait toujours jusqu'à la première marche du perron. Purtroppo sono costretto a tradurvelo subito, ma naturalmente qualche volta mi prenderò il piacere quando sarà possibile di leggere in francese esclusivamente. Allora, la visita è finita. Lei lo riaccompagnava sempre fino al primo gradino della scala. Quando non avevano ancora portato il cavallo, lei restava lì. Si erano salutati, non parlavano più. L'aria aperta la circondava, sollevando alla rinfusa i riccioletti sparsi sulla sua nuca, o scuotendo sui fianchi i cordoncini del grembiule che si attorcigliavano come banderuole. Una volta, in tempo di disgelo, la scorza degli alberi trasudava nel cortile. La neve sui tetti degli edifici si scioglieva. Lei era sulla soglia. Andò a prendere l'ombrello e lo aprì. L'ombrello di seta cangiante che il sole attraversava rischiarava dei riflessi mobili la pelle bianca del suo viso. Lei sorrideva là sotto al calore tiepido e si sentivano le gocce d'acqua una a una cadere sulla stoffa tesa. Facile che così mi vanto di aver scoperto, perché non se ne parlava mai nella poveria di questa pagina meravigliosa, che è un quadro impressionista, che è un quadro impressionista e possiamo muoverci tra Manet e Monet, insomma. Lei lo riaccompagna fino al primo gradino della scala. E questo riaccompagnarlo c'è naturalmente il gesto della padrona di casa, educata, cortese, che riaccompagna naturalmente l'ospite fino alla soglia di casa. Ma badate, fino alla soglia, e perché non oltre la soglia? E perché evidentemente esistono delle convenzioni, delle leggi, una ragazza non può andare con un uomo, sia pure il dottore, oltre la soglia di casa e quindi accompagnarsi con lui liberamente. Quindi lo accompagna come conviene fino alla soglia di casa, fino al primo gradino della scala, fino al primo gradino della scala. Il cavallo era naturalmente stato portato prima per riposarsi, per essere nutrito, e finché non arrivava il cavallo lei restava lì per gentilezza, per cortesia, sicuramente, non solo vista la frequenza delle visite di lui e visto il fatto che questa frequenza non le dispiaceva assolutamente, anche per piacere. Si erano salutati, quando il testo francese dice si erano detti addio, ma voi sapete molto bene che la parola addio non corrisponde all'addio italiano, nel senso che addio è una parola che indica il fatto che ci si possa tranquillamente rivedere, mentre se in italiano due amici si dicono addio è molto poco comune, insomma noi addio lo diciamo in certe circostanze, sempre per l'Europa, il nest. Quando è che si dice addio? Quando una persona sta per morire, quando non vedi più una persona. Ma direi che addio è proprio una parola socialmente interdetta, nel senso che è troppo duro, crudo pronunciarla. Una coppia in cui ci si lasci, fate caso, e in cui quindi si stabiliscano le basi per un addio, però per motivi scaramantici, per il troppo dolore che ne viene, non so quale sia la vostra personale esperienza, ma non ci si dice addio, ci si dice, ci si saluta, ci si dice arrivederci, magari, ma addio no. In francese no, naturalmente. Quindi si erano salutati semplicemente e non parlavano più. Perché non parlavano più? Perché quando una coppia si sta innamorando, quando una coppia si sta innamorando, e non è che può sempre parlare, l'emozione impedisce di parlare, non è solo l'emozione per la verità, è nella fattispecie anche la timidezza, emozione, e poi un fatto su cui si riflette poco normalmente quando si pensa alla dinamica dell'innamoramento nei suoi primi momenti, nelle sue prime ore, è che uno in realtà, pur essendo assolutamente proteso alla intelligenza dell'altro, al colloquio con l'altro, alla volontà di stare con l'altro, sta con se stesso. Chi si innamora ha bisogno di stare con se stesso, di riprendersi un po', per così dire, le forze da questo colpo che sta subendo e che non ha minimamente atteso. pensa sempre delle partenze, magari alla stazione o all'aeroporto, no? Quella situazione è anche vagamente buffa. Quando due si sono salutati, ah ciao, ciao, allora ci vediamo, ma il treno non parte. L'avrete avuto molte volte questa sensazione. No, l'aereo non parte. E allora a questo punto cosa si fa? Ormai non si può più tornare sui propri passi. Allora si scambia qualche parola, imbarazzata. Allora la persona che sta per partire dice all'altro: no, ma vai via, magari tarda. No, aspetto ancora. Però anche tra dove le confidenze siano più strette si è imbarazzati. Alla fine magari uno prende la decisione, volta le spalle e se ne va, ma sempre con un certo senso di disagio se tiene affettivamente all'altra persona. I due non sono molto elaborati, sono due ragazzi che hanno la caratteristica di essere, oltre che due giovani, di essere sciocchi. Ho dimenticato di sottolinearvi, ma lo farò naturalmente nel prosieguo sempre, che questo è un romanzo in cui tutti sono stupidi. Ed è stata la grande intuizione di Flaubert questa, che non solo per mostrare le meschinerie della provincia, perché lui vuol descrivere dei mœurs de province, dei costumi di provincia, questo recita il sottotitolo di Madame Bovary, ma anche per mostrare come viene vissuto l'amore da tutti indistintamente, Tristano e Isotta, Dante Beatrice è un caso, l'amore è vissuto con stupidità, nel senso che uno non è nel meglio delle proprie forze, uno Saffo sosteneva, la grande poetessa greca che mi auguro conosciate, sosteneva che l'amore non è assolutamente diverso da una malattia. I sintomi che produce non a caso sono quelli di una malattia. Uno trema, non riesce a dormire, si sente male, se la persona amata non c'è soffre immensamente. Tutti sappiamo le angosce pazzesche che abbiamo provato con il telefono o con le lettere, quando la lettera non arrivava, quando il telefono non suonava, soprattutto lo squillo del telefono. Ecco, adesso con i telefonini è un po' cambiato, no, più o meno la stessa cosa stavo pensando, ma nel telefono tradizionale si aspettava questo squillo, si era in casa con un solo telefono, quando lo squillo arrivava magari non era la persona decurius in questione, il senso di delusione, di amarezza, di scoraggiamento, ecco perché a un certo momento i due non parlano più. Faccio una notazione che non so che se vi ho fatto sul titolo Madame Bovary, ve l'ho già fatta? Ah ecco, ci tenevo molto, era molto importante, appunto che questa è la storia di una donna sposata, ed è un caso abbastanza unico, perché noi troviamo normalmente, l'ho detto appunto ieri, ma non mi ricordavo di averlo detto, noi troviamo appunto nome e cognome di donna, Anna Karenina è il caso tipico insomma, Madame Bovary è proprio perché lui vuol dire è una donna, questo è capitato a una donna sposata. Andiamo oltre. E che cosa si fa quindi aspettando che il cavallo arrivi? Notate la semplicità assoluta della descrizione, Lei va fuori di casa, il cavallo non è ancora arrivato, lei sta ferma, non si parlano più. Se fate caso, non c'è mezza parola di troppo, mezzo accenno di troppo. Tutto è scarnificato. L'aria aperta la circondava. E quando dico l'aria aperta la circondava, non mi è difficile capire perché. Siamo sulla soglia di casa, siamo in campagna, l'aria aperta la circonda. Però dobbiamo fare una considerazione. Da dove stanno provenendo i due? Dalla casa. Da dove, secondo lei, dalla casa? Da quale parte? Il soggiorno. Tra il soggiorno e l'ingresso, che cosa c'è? Nel corridoio? Sì, c'è un corridoio, presumibilmente, no? Cioè, per arrivare all'ingresso c'è un corridoio. Adesso dovete cercare di guardare rappresenta dal punto di vista luministico, per così dire, è il fuori. Il fuori è chiaro, è abbagliante, è accecante, d'accordo? Il dentro, per quanto sia chiaro, è una casa dell'Ottocento, non abbiamo motivo di pensare che fosse poi di campagna, eccessivamente illuminata, evidentemente, è buio. Quindi è come se loro andassero dal buio al chiaro, no? Andassero verso la luce. Questo andare verso la luce, per due persone che si stanno innamorando, voi capite quanto sia significativo. Due persone che stanno innamorando, siccome se uscissero da un corridoio, il corridoio della loro vita quotidiana, e andassero verso la luce, non sanno che vanno verso la luce, non sanno. L'unica cosa che sanno è che vengono da una zona che finora era sembrata normale dal punto di vista dei watt, delle lampadine che la illuminavano, ma adesso ci si rende conto che quelle lampadine erano molto basse. È chiaro? Adesso ci si rende conto che la luce era molto bassa, adesso che si vede una luce infinitamente superiore. D'altra parte, la felicità è sempre stata rappresentata con il concetto di luce. Dante, quando vuole cercare di raffigurare l'emozione che si ha a contatto con Dio, a che cosa ricorre? Ricorre alla luce, alla luce soprattutto. Quando uno si innamora, entra nella luce. Quest'aria aperta che la circondava non vuol dire solo luce, vuol dire vento, vuol dire respiro, perché prima di innamorarsi, se così posso dire, manca l'aria. La nostra vita è soffocata, è asfittica, non riusciamo a respirare bene, e poi improvvisamente questo vento che tra l'altro troviamo tra gli elementi della Bovary che accompagnano spesso la nascita dell'amore, questo vento che viene successivamente. Quindi c'è quest'aria e ci sono i suoi capelli, i famosi capelli di Madame Bovary, che abbiamo già definito, capelli neri, una scriminatura al centro, capelli che una banda e l'altra costituiscono come due pezzi monolitici. Ma se i due pezzi monolitici, la scriminatura al centro, con quella scriminatura che va dietro sul cranio, le allusioni erotiche sono con la, capite? Con la fessuretta che va dietro, e uno comincia a pensare ad altre cose, se mi intendete. La cosa straordinaria è che questa parte dei capelli con la scriminatura, che indica la donna che ha studiato, che, come viene detto fra poco, non è una semplice contadina, è una raffinata nei modi, e allora i capelli sono ben messi. Mi seguite? Ma sul collo ci sono quei ricciolini che non possono mica essere controllati più di tanto. E quei ricciolini sul collo, ma il collo è una parte molto erotica. Ma perché una parte erotica è il collo? È una parte erotica per un motivo molto semplice, perché non è controllabile. Non è controllabile, no? Perché tutta la sessualità che avviene, se vi concedete di dirlo con estrema leggerezza, in modo non controllabile, sul retro del corpo, questo è il massimo che posso dire, è più eccitante perché non è controllabile. Nella sessualità ciò che non è controllabile è da più emozione, evidentemente, no? E vorrei dire, insomma, si potrebbero fare dei discorsi anche di straordinaria verità, insomma, sul bisogno che uno ha nella sessualità di violenza, in certi casi, in modo embrionale, in modo anche perfino inconsapevole, proprio perché in questo modo sei esposto. Nella sessualità uno vuole essere esposto. È chiaro? Bene. I riccioli si muovono al vento. non solo i riccioli si muovono a mente. Ah, davanti un grembiule. Io non ho un grembiule in questo momento, ma vedo che per esempio neanche la signorina ce l'ha. Perché non ha un grembiule? Qual è il motivo? Perché non è a casa? Io le dico io quando è probabile che abbia un grembiule. Quando è che può avere un grembiule? Me lo dice lei? Quando studia? No. Quando? Quando sta cucinando. Perché uno cucina con il grembiule? Per non sporcarsi. Cosa possono venire fuori? Possono schizzare dal fornello? Pomodoro, olio, no? Tante cose, eccetera. Il fatto che lei abbia un grembiule vuol dire che è una donna di casa. E allora guardate l'abilità con cui il personaggio è raffigurato, donna colta e capelli ben messi, ma con delle parti scoperte dietro, questa sessualità che viene appena allusa. Poi, il grembiule è una donna di casa e siamo in campagna. Ricordate che Flaubert in questo libro è come se lo dicesse ogni 10 righe: siamo in campagna, per cui quando avverrà la seduzione di Emma Bovary, non da parte del povero marito naturalmente, avverrà mentre c'è una fiera e si grida per poter vendere agnelli, vitelli, no? La seduzione avviene nell'etame, circondati dalla merda degli animali. Perché questo? Perché lui vuol dirci che inter feces et urinam nascimur, perché la nostra corporeità, noi nasciamo tra le feci e l'urina, la nostra corporeità è tutto. Tutto questo era notevolmente scandaloso per i tempi, perché nel realismo ottocentesco non si era mai arrivati a questa, vorrei dire, carnalizzazione dell'amore così profonda. Né Balzac né Stendhal. Ci sarà questo in Zola più avanti, in senso però ideologico. Qui invece non è in senso ideologico, ma l'amore è fatto di corpi. Vi ricordate quello che vi raccontavo dell'interesse per il corpo che lui ha quando da bambino vede le autopsie che fa il padre, eccetera, no? Il grembiule si muove. Ma guardate, dovete imparare a essere bravi lettori, e quindi non bisogna lasciarsi sfuggire niente. Come i riccioletti si muovono, così i cordoncini del grembiule si muovono al vento, come banderuole. Ora, quando una persona diciamo che è una banderuola, che cosa alludiamo? Un po'? Qual è l'opposto di uno che è una banderuola? Ma se lei è un giorno che si sposerà, avrà tanti bimbi, 5, va bene. Un giorno che si sposerà, avrà tanti bimbi, dice a suo marito prima di sposarmi, dice: caro, o capo, ti devo dire questo, che io sono una banderuola. Lui come la prende secondo me? Come la prende? E ci rifletta, perché la prende? Se lui, se lei dice, se la prende, dia perché? Un po' infedele. E allora lei potrebbe rispondere: ma questo è un mito. Potrebbe rispondere una frase del genere: il tuo è un mito borghese molto stupido della fedeltà. Io non ce l'ho affatto. No, uno può amare una persona senza essere fedele. Dove sta scritto che deve essere fedele? No? Lui comincerebbe a avere delle obiezioni, evidentemente. Ma voi vedete che questi nastrini del grembiule che si muovono sono come un segno, un simbolo del fatto che lei sarà una banderuola, che lei uscirà fuori dal matrimonio, eh? Continuiamo. Siamo in un tempo di disgelo. Una volta in un tempo di disgelo, quindi si sta raccontando un'abitudine che avviene normalmente, lei che accompagna alla porta, alla soglia di casa il dottore, non si dicono una parola, e poi il dottore non è mica uno che ne sappia farci con le donne, l'avete capito, insomma. è un coglione, è uno che si è sposato, che si è sposato con una vecchia, è uno che non sa niente, probabilmente la moglie si mette vestita quando hanno rapporti sessuali, solo l'idea, con quelle lunghe braccia magre mi suscita una sorta di orrore, effettivamente forse non l'hanno mai avuto, forse non sa come si fa, nonostante sia un medico, insomma, quindi lui è proprio a zero anche dal punto di vista, e quanto a lei? Lei è, sul fatto che sia, come si suol dire, vergine, nessun dubbio, ma ha tutto in testa, soltanto che in queste cose, io lo dico a lei, perché l'ho presa gioia come modello, sapere le cose importa, ma farle è un'altra cosa. Cioè dal dire al fare c'è di mezzo il mare, quindi sono due, noi diremmo tranquillamente, imbranati. E siamo adesso in un tempo di disgelo. Ma io vi ho raccontato quando è che è avvenuta la prima visita, che mese era? Quindi avete capito che con questa frattura lui ci ha marciato sostanzialmente, non tanto per i soldi, ma per il fatto di vedere. Quindi ormai siamo alla fine dell'inverno, saremo alla fine di febbraio, siamo in campagna, è un tempo di disgelo. E cosa succede nel tempo di disgelo? Abbiamo avuto la neve a Roma, l'abbiamo potuto vedere, che la neve si scioglie sui tetti e gocciola. E il fatto che la neve si sciolga non mi fa venire in mente in questo quadro che si sta sciogliendo qualcosa anche nella dura, congelata vita dei due poveretti che non hanno mai conosciuto ombra di amore, uno con la vecchia, no? E l'altra senza uomo, solo con i suoi pensieri in testa, nient'altro. Quindi diventa squisitamente simbolica questa neve che si scioglie, ma arrivato a questo punto il bravo lettore che cosa fa? Non procede, come vi ho detto, e in attesa di andare al bar, al frigorifero a farsi un panino, che è la cosa fondamentale, deve sentire la situazione, il silenzio. Avete presente il silenzio della neve? Avete presente, l'abbiamo presente, che poi è successo a Roma poco tempo fa. Che cosa succede quando si scioglie la neve? Lo sgocciolio? Solo che qui siamo in una città d'ora. Lì è un'aperta campagna dell'Ottocento in Normandia. Li sentite quindi, prima di procedere nella lettura, i profumi dell'aria dell'inverno che se ne va? I profumi, acqua, aria, profumi, silenzio. Vi ripeto queste parole: acqua, aria, profumi e silenzio. E a questo punto lei, siccome piove, vedete come tutto è semplice, antilirico, cosa si fa? Quando piove, perché piove dal tetto, piove, la neve si scioglie e piove, va a prendersi l'ombrello. Ma naturalmente non è un ombrellaccio nero, grigio, né uno comprato sulla bancarella da un extracomunitario. No, è un ombrellino da signora con i capelli ben messi, lisci, neri. Che ha, ricordate, sulla gonna, cos'ha sulla gonna? Del volano. Io non vedo, per esempio, nessuno di voi qua con dei volan sulla gonna. Vedo che molti di voi hanno i pantaloni. E chi ha la gonna? Lei ha la gonna? No. Chi ha la gonna qua? Nessuno. E infatti le ragazze oggi la gonna la mettono pochissimo. Ma se veniste con la gonna, può anche capitare naturalmente, potete immaginare di venire a Tor Vergata con una gonna con dei volant? Forse il giorno della laurea, no? Ma sarebbe un po' insolito, francamente. Ecco, un po' insolito. Sono persone che non sanno vivere, che vanno con i volant. Mi ricordo che una volta andai, erano i primi tempi che c'erano quelle tremende discoteche psichedeliche, erano cose spaventose. E con due amici, di cui lei era una signorina di età, cioè di età, sei stata giovanissima, ma io avevo di età, io avevo 20 anni, insomma, siamo andati in una discoteca. casino pazzesco, rumore, pianti, luci, no? Tra l'altro io mi vedevo un cazzo assolutamente, non capivo niente, ma cosa fare? Questa era stata, come dire, scelta dalla sorte per farmi da compagna in questa visita alla discoteca. Io avevo avuto 20 anni e ne avevo avuti una trentina. Come si era messa costei? Si era messa vestita che sembrava che dovesse essere ricevuta dalla regina d'Inghilterra. Un vestito con un'ampia immane scollatura che tra l'altro scopriva un seno inesistente, magra, dura, biancastra e con i volanti. Ecco, mi è venuto in mente appunto, era completamente inadeguato, sarebbe come se io andassi in smoking sulla spiaggia a Torbaianica, no? O come se venissi qui, e questo invece sarebbe più attendibile, vestito minuscolo, io l'ho detto più volte, slippini rossi, non so affatto male, delle fotografie, allora in questa situazione, lei apre l'ombrello. Com'è l'ombrello? È vezzoso, è color cangiante, letteralmente sarebbe petto di piccione, gorge de pigeon. Ma attenzione, l'ombrellino è trapassato dalla luce del sole. Fermi! Cosa succede se un ombrellino cangiante viene trapassato dalla luce del sole? Immaginate che fantasmagoria di colori si vengono a creare sul viso del portatore dell'ombrello, perché lei sta lì, quindi immaginate che quadro meraviglioso viene fuori. Rischiarava questa luce di riflessi mobili la pelle bianca, manco a dirlo, la pelle bianca, tutte le donne belle hanno nel topos la pelle bianca. Chi ha la pelle bruna può avere delle forme meravigliose, ma può andarsene a scuola. Infatti Baudelaire, colgo l'occasione di dire che amava una mulatta, era visto come un matto sostanzialmente, e gli sorrideva lei là di sotto al calore tiepido, sorrideva. Ed è del tutto evidente che quando noi abbiamo una forte emozione, e questa emozione però vive in una sorta di inconsapevolezza, il sorriso è il tramite attraverso cui può essere manifestata, non il riso, non il pianto, ma sorride, e c'è una sorta, il sole che giunge giù, viene giù, una sorta di calore tiepido, che è il calore della situazione emotiva che si è venuta a creare. E si sentivano le gocce d'acqua una a una cadere sulla stoffa tesa. Io ho dedicato particolare attenzione, naturalmente poi molta parte del romanzo si era saltata, ma questi punti iniziali, ma vi dico intanto quel che succede del matrimonio di Charles. Il notaio a cui la moglie di Charles ha affidato le sue sostanze scappa con la cassa. Lei è rovinata. Agli occhi dei genitori di Charles, l'unica ricchezza di questa donna, vecchia e brutta, erano i soldi. Senza soldi non vale più nulla. E quindi loro si sentono in qualche modo autorizzati a infierire su questa donna. Ma lei stessa sa che senza soldi non vale nulla. Questo è uno dei grandi problemi, lo dico qui alle ragazze presenti, quando diventeranno molto ricche. Molto ricche. Perché correrete il rischio che qualcuno nella vita poi stia con voi, ma per altri motivi, per motivi di soldi. Anche voi dite, ma intanto divento prima molto ricco e poi ne parliamo dopo, successivamente. Comunque, per il dolore di essere diventata improvvisamente povera, charle che si chiama, ricordate che queste cose sono importanti. Io sono esattamente anti-68, sapete le nozioni, il nozionismo che il 68 aveva rifiutato, che avete presente, quando i professori, no, non voglio delle nozioni, io voglio le nozioni. Voglio tutti i nomi delle Alpi, tutte le nozioni, il nome della donna era Eloise, ricordate? Eloise. E muore e a questo punto lui si trova con le mani libere, ma mani libere perché fa? Mica può pensare di accedere minimamente lui, un povero ufficiale sanitario di provincia, a Emma. Capitolo 18, quantomeno diamo una prima lettura. 18? No, 12, 12, ho letto tutto male. 12. E qui lo trovate questo capitolo, lo trovate in questo modo facile. Prendete il capitolone 3 del romanzo, poi girate la pagina e il capitolo nostro inizia con l'espressione, con il capoverso, il arriva un jour vers 3 heures. Ci siamo? Il arriva un jour vers 3 heures. L'ha trovato? Trovato, eh? Allora, attenzione. Titolo del capitolo. Dopo pranzo, virgola, in cucina. E sentite con molta attenzione. Lui va a trovarla. Siamo avanti nell'anno ormai, l'inverno è passato, la primavera, siamo arrivati all'estate. Non c'è più pretesto per andare a visitare Emma, qui è il punto, perché il padre è guarito. Ma lui vuole andare a trovare. Arrivò un giorno verso le 3, tutti erano nei campi, entrò in cucina, ma non scorse subito Emma. Le persiane erano chiuse. Attraverso le fessure di legno il sole allungava sulle piastrelle delle grandi strisce sottili che si spezzavano all'angolo dei mobili e tremavano sul soffitto. Delle mosche sul tavolo salivano lunghi bicchieri che erano stati usati e ronzavano annegandosi nel fondo del sitro rimasto. La luce che scendeva dal camino, vellutando la fuliggine della piastra, inazzurriva un po' le ceneri fredde. Tra la finestra e il focolare, Emma cucina. Non aveva foulard e si vedevano sulle sue spalle nude piccole gocce di sudore. Secondo l'uso della campagna, ella gli propose di bere qualcosa. Lui rifiutò, lei insistette e finalmente gli offrì, ridendo, di prendere un bicchierino di liquore con lei. Andò a cercare nell'armadio una bottiglia di Curaçao. Prese due bicchierini, ne empì uno fino all'orlo, ne versò appena nell'altro e dopo aver brindato lo portò alla bocca. E siccome era quasi vuoto, si rovesciava all'indietro per berlo. E la testa all'indietro, le labbra protese, il collo teso, rideva del fatto che non sentiva niente, mentre la punta della lingua, passando fra i denti fini, leccava Cire, che era una calza di cotone bianco dove faceva dei rammenti. Lavorava con la fronte bassa, non parlava, Charles nemmeno. L'aria, passando sulla parte sotto la porta, spingeva un po' di polvere sulle piastrelle e lui la guardava muoversi e sentiva soltanto il battito interiore della testa con il grido di una gallina lontano che faceva le uova in cortile. Emma di tanto in tanto si rinfrescava le gote applicando la palma delle sue mani sopra, palma che rinfrescava poi sul pomo di ferro degli alari. Lei si lamentava di provare, dall'inizio della stagione, degli stordimenti. Chiese se dei bagni al mare le sarebbero stati utili e si mise a parlare del convento, Charles lui del collegio, e le frasi vennero loro. Salirono in camera. Ella gli fece vedere i suoi antichi quaderni di musica, i libretti che le avevano dato per premio e le coroncine di foglie di quercia abbandonate nel fondo di un armadio. Ella gli parlò ancora di sua madre, del cimitero, e gli mostrò anzi nel giardino l'aiuola da cui coglieva i fiori tutti i primi venerdì dei mesi per andare a metterli sulla sua tomba. Ma i giardinieri che avevano non capiva niente, si era così mal serviti. E anzi avrebbe voluto che almeno durante l'inverno potesse abitare in città, sebbene la lunghezza delle belle giornate rendesse forse la campagna più noiosa ancora che durante l'estate. E a seconda di quel che diceva, la sua voce era chiara, acuta, oppure, coprendosi di languore tutto un tratto, aveva delle modulazioni che finivano quasi con un mormorio quando parlava a se stessa.